I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. La Grecia è insolvente sui rimborsi in scadenza a giugno verso il Fondo Monetario Internazionale. E poi ci sono le dichiarazioni di Benoît Cœuré, numero 2 della Banca Centrale Europea, il mantenimento di alcune borse su livelli record. Questi temi che la settimana scorsa hanno dato la direzione ai mercati, una direzione che continua ad essere piuttosto positiva per molti indici azionari. Tokyo si conferma sui massimi da 15 anni, grazie anche alla ripresa economica e l'Abenomics che comincia a far vedere i suoi frutti. Record di Wall Street, dove la banca centrale americana continua ad essere molto vaga sulla ripresa dell'aumento dei tassi di interesse. L'Europa invece, come dicevamo in apertura, si concentra sulle vicende greche. In settimana il governo ha fatto sapere di non essere nelle condizioni di rimborsare i 300 milioni di euro della nuova tranche in scadenza verso il Fondo Monetario Internazionale, ma anche i prestiti successivi la Grecia non sarà in grado di ripagarli e quindi Tsipras ha presentato al vertice europeo di Riga il piano di ristrutturazione del debito. Oggi sarà interessante valutare l'impatto sui mercati di queste novità, ma la scorsa settimana le borse hanno avuto la lucidità di mantenersi abbastanza distaccate dalle schermaglie fra la Grecia e gli organismi internazionali, preferendo concentrarsi su temi diversi. Oggi sarà interessante valutare anche l'impatto sull'andamento delle borse del risultato elettorale spagnolo. Sul fronte valutario abbiamo assistito ad un discreto apprezzamento del dollaro proprio venerdì dopo il dato sull'inflazione americana. A Piazza Affari qualche tema da segnalare: abbiamo avuto lo stacco dei dividendi per un valore di circa 8 miliardi, l'assegno più corposo è stato quello staccato da Eni, che ha distribuito ai soci oltre 2 miliardi di euro a saldo del dividendo di pari importo che era già stato pagato in autunno. Per questa settimana il Tesoro ha annunciato che verranno offerti, questo succede domani, fino a 3 miliardi di euro di CTZ e di 2 BTP indicizzati all'inflazione europea, mentre il 27 maggio saranno collocati 7 miliardi di bot. Altri temi da monitorare questa settimana, oltre naturalmente a non perdere di vista la questione greca, oggi mercato inglese e americano chiusi per festività. Le statistiche da tenere sotto controllo sono gli ordini di beni durevoli americani, il vertice del G7, l'inflazione tedesca, ma anche quella italiana e infine il PIL americano. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Buon pomeriggio. Non sarà stato un lunedì nero, ma certamente un lunedì grigio per i mercati finanziari. Questo lo è stato. L'annuncio della Grecia di avere, diciamo così, mettere in dubbio il pagamento del 1,5 miliardi di euro che deve al Fondo Monetario ha lanciato un po' una scossa di nervosismo su quei mercati finanziari aperti, visto che oggi Wall Street, Londra e la Germania sono rimaste chiuse. Le principali borse oggi che stanno pagando quest'area di nervosismo sono ovviamente l'Italia, quella che vi è considerata nell'ambito dei PIX, ma anche la Spagna, dove la vittoria alle amministrative spagnole di Podemos ha dato un segnale, un allarme molto serio non soltanto ai mercati finanziari ma anche all'Europa. Le situazioni di crisi per ora sono uno, quello della Grecia, ma non è detto che l'onda politica del dissenso nei confronti delle rigidità europee e la difficoltà di trovare un compromesso sulla Grecia non producano scossoni più forti e più sentiti durante il resto della settimana. Che cosa possiamo dire? Che la Grecia sta andando incontro alla bancarotta? No, questo non si può dire ed è bene ricordarlo, anche per un motivo: il Fondo Monetario non è un soggetto internazionale riconosciuto come una banca o come un creditore, è un soggetto molto particolare per il quale mancare i pagamenti non è default, ma questo non significa che con la crisi della Grecia non ci sia un default maggiore, quello della solidarietà in Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.